Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Guardi, nessun reset fa effetto se non abbiamo un piano per impedire che i casi risalgano e per consolidare i risultati di qualsiasi misura. Guardi, in qualsiasi misura di restrizione più o meno rigida prima o poi farà effetto. Il problema è che non è che si può andare avanti con misure di restrizione per mesi e mesi e mesi. L'agenda politica dovrebbe essere quella di preparare un piano nazionale per consolidare i risultati di queste nuove misure di restrizione, altrimenti a febbraio ci ritroveremo nella stessa situazione. Lo ha detto, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, Crisanti, che sapete uno dei maggiori esperti avuti in questo lungo periodo scuro, sia nella prima ondata che adesso, uno dei maggiori esperti sentiti, insomma, da noi giornalisti, da naturalmente chi deve prendere le decisioni, che ha detto che bisogna mettere a punto un piano che, oltre alle restrizioni, dice, consolidi poi i risultati raggiunti. Questo è il suo speech. Intanto oggi incontro intenso all'interno del governo, della maggioranza, e poi governo e regioni, ancora dovrebbe essere in corso in questo momento, con varie anticipazioni però che cominciano a emergere nel tardo pomeriggio sul DPCM, le bozze del DPCM, il nuovo decreto del Presidente del Consiglio, che forse sarà firmato tra stasera e domani e poi dovrebbe entrare in vigore il 5 novembre. Ne parleremo quindi di queste anticipazioni con la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa, qui Effetto Notte. Poi naturalmente non potremo mancare all'appuntamento dell'America, al bivio, anzi vi dico già da questo momento che questo è una lunga puntata speciale di Effetto Notte, perché invece che chiudere con voi alle 22 sarò in vostra compagnia sino alle 23 con esperti, giornalisti eccetera, che analizzeranno queste ore cruciali per l'America e non solo, naturalmente importante per tutto il mondo quello che succede negli Stati Uniti. E poi un accenno al bonus biciclette. Oggi click day, insomma un vero delirio, per molti versi è stato un flop, insomma cercheremo di capire poi se si può accedere nuovamente, così avrebbe detto il ministro dell'ambiente Costa oggi. Comunque, per i vostri commenti per questa lunga serata, pagina Facebook come sempre per scrivere le vostre riflessioni, oppure i WhatsApp al 349-238-6666, come sempre il numero appunto a vostra disposizione, 349-238-6666. Molti allora approfondimenti fino alle 23 con gli ospiti, ma prima di tutto sintesi della giornata. Il coronavirus in Italia, tornano a salire i nuovi contagi, oltre 28.000 in un giorno e le vittime sono 353. Il nuovo DPCM, dopo lunghe riunioni, trovata l'intesa nel governo sulle misure restrittive, attesa la firma tra stasera e domattina, nella bozza coprifuoco alle 22, nelle zone rosse negozi chiusi e mobilità vietata, le regioni chiedono misure omogenee. L'attacco a Vienna, l'attentatore era riuscito a ingannare il programma di deradicalizzazione, altri arresti intanto in Svizzera, rafforzati i controlli alle frontiere italiane. Gli Stati Uniti al voto, i sondaggi danno Biden in vantaggio, ma non sono escluse sorprese e Trump ostenta sicurezza. Poi ci sarà una parte speciale appunto qui Effetto Notte. Denis Verdini condannato a 6 anni e mezzo, lo ha deciso la Cassazione nel processo sul crack del credito cooperativo fiorentino. Bonus bicicletta, portale a singhiozzo nel giorno di click day per ottenere il parziale rimborso, il ministro Costa a Radio 24 dice soddisferemo tutte le richieste. Calcio, nelle sfide di Champions maschile in campo Inter e Atalanta. Partiamo quindi come sempre dall'andamento del coronavirus in Italia. Tornano a salire i nuovi contagiati individuati nel nostro paese, sono 28.244 e oggi il bollettino del Ministero della Salute registra un balzo nei decessi e nei ricoveri in terapia intensiva, i numeri più alti in Lombardia, Piemonte e Campania. Con 28.244 nuovi casi su oltre 182.000 tamponi, scende lievemente al 15,5% il rapporto tra positivi e test effettuati, ma c'è un forte aumento dei decessi, altri 353, e dei ricoveri in terapia intensiva, 203. In Lombardia, Piemonte e Campania il numero più alto di contagi e di ricoveri in terapia intensiva, tra i parametri da considerare per l'individuazione delle regioni rosse, ovvero nella fascia di rischio più alta introdotta dal nuovo DPCM. Impennata di contagi anche in Veneto e salgono di molto le terapie intensive anche in Lazio, Toscana, Emilia-Romagna e Sicilia. Balzo di ricoveri anche in Puglia, dove reparti ospedalieri e pronto soccorso sono in difficoltà con ambulanze in coda a Foggia e dove entro venerdì saranno allestiti i primi 1100 posti letto aggiuntivi con la conversione di decine di reparti. Intanto Bolzano, con altri 10 comuni della provincia altoatesina, è stata dichiarata zona rossa dal 5 novembre per 2 settimane. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nel frattempo, nella lunga giornata di oggi, raggiunta l'intesa sul decreto del Presidente del Consiglio nel Governo, la bozza del testo prevede, in sintesi, dal 5 novembre al 3 dicembre il coprifuoco a livello nazionale dalle 22 alle 5, la capienza di bus e metro al 50% al massimo, poi lo smart working ai livelli massimi sia nella pubblica amministrazione che nel privato, stop ai concorsi salvo che per il personale della sanità e alle crociere, chiusi musei, mostre, sale bingo e casinò, i centri commerciali nel fine settimana, nelle aree ad alto rischio che ricadono nei scenari 3-4, divieto di entrare e uscire, nelle regioni rosse negozi chiusi, didattica a distanza, ma insomma ne parleremo poi con la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa nel corso di questa puntata. Intanto le regioni chiedono misure omogenee, il Presidente della Repubblica Mattarella vede i presidenti delle Camere per favorire la collaborazione istituzionale perché dice è importante la centralità del Parlamento. E mentre l'Italia discute sulle misure da prendere, molti degli altri paesi europei sono già in lockdown nel tentativo di frenare i contagi. La Francia sta programmando per i prossimi giorni evacuazioni di malati dalla regione Hauts-de-France verso altre regioni francesi, lo ha annunciato, ma anche addirittura verso la Germania. I contagi da coronavirus in Europa intanto hanno superato la soglia degli 11 milioni, secondo un conteggio dell'agenzia France Press, basato su fonti ufficiali. In Europa sono state registrate oltre 11 milioni di infezioni e 284.148 decessi. Quasi la metà di questi riguardano i paesi più colpiti, cioè la Russia, la Francia, la Spagna e il Regno Unito. In totale, invece, per quanto riguarda il mondo, sono stati registrati 46.998.445 casi e 1.206.930 decessi. Ed è scattato proprio oggi il lockdown in Austria, dove proseguono le indagini sull'attacco di ieri sera, costato la vita a 4 persone, 22 invece i feriti. 2 persone sono state arrestate in Svizzera, 14 i fermi temporanei invece in Austria. A Vienna c'è una nuova paura ad amplificare il silenzio il giorno dopo l'attentato, il primo anche del nuovo lockdown, la paura di complici in fuga del terrorista islamico ucciso dalla polizia. Lo ammette il cancelliere Sebastian Kurz e per questo sono stati rafforzati i controlli ai confini con la Germania e al Brennero, mentre la Gran Bretagna innalza il livello di allerta. Fermi e perquisizioni provano però a ricostruire la rete del killer, già noto agli apparati, cui team Feizulai, ventenne, nato in Austria, da genitori originari della Macedonia del Nord, era infatti stato respinto dalla Turchia mentre cercava di raggiungere la Siria, come altri 90 foreign fighters austriaci. Lì sarebbe entrato in contatto con 2 jihadisti tedeschi e 1 belga, secondo il settimanale Der Spiegel. Ma il giovane era anche riuscito ad ingannare il programma di deradicalizzazione, a cui accusa il ministro, visto che dopo la condanna a 22 mesi era stato liberato in anticipo a dicembre. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E in serata l'ISIS ha rivendicato questo attacco a Vienna. Passiamo agli Stati Uniti, dove fra eccezionali misure di sicurezza si sta svolgendo il voto per le presidenziali. La Camera del Congresso fa sapere di essere pronta a decidere sull'esito del voto se i risultati saranno contestati e se il 6 gennaio non ci sarà ancora un esito chiaro. Questo l'ha detto la Presidente della Camera americana Nancy Pelosi. E allora ci colleghiamo col nostro Sergio Nava. Ciao Sergio. Ciao Roberta. Allora, tra poco, dalle 22 parte la parte speciale di Effetto Notte, tutta sugli Stati Uniti, ci sarà naturalmente anche il nostro Sergio Nava. Senti, intanto sappiamo che c'è stata un'affluenza record ai seggi, con oltre 100 milioni di elettori che hanno votato in anticipo di persona o per posta, no? Quindi in realtà non parte oggi il voto, ma è un prosieguo. Ma diciamo che questo, paradossalmente, pur essendo un grande risultato, può complicare le cose, perché 100 milioni di voti anticipati, quindi 100 milioni di americani che hanno votato prima di oggi, potrebbero significare conteggi ovviamente procrastinati o rallentati. Faccio un unico esempio: la Pennsylvania prima conterà i voti che sono stati messi nell'urna oggi, e solo successivamente invece conterà i voti arrivati nei giorni scorsi o comunque per posta, e potrebbe farlo fino a, per alcuni giorni anche, fino a venerdì prossimo. Quindi questo vuol dire che alcuni stati, e poi spiegheremo anche nello speciale Roberta come funzionerà il collegio elettorale, il compito del voto, di come funziona, è un po' complesso, esatto, diciamo, gli Stati Uniti. Alcuni stati potrebbero in realtà inizialmente sembrare, che so, faccio un esempio, a favore di uno Trump dei due e invece dall'altro, ecco, e quindi staremo a vedere. Questa è la complessità del voto americano, che si spiegherà poi Sergio Nava. Intanto passiamo invece in Perù, una cosa incredibile che però tante volte è successa anche dalle nostre parti, ha scatenato polemiche e indignazioni in Perù la decisione di un tribunale della città di Ica di assolvere un giovane accusato di stupro perché, tra le argomentazioni dei giudici, la vittima portava indumenti intimi di colore rosso con pizzo che di solito, tra virgolette, di solito vengono utilizzati per momenti di intimità. L'ufficio di controllo della magistratura ha aperto un'inchiesta sui giudici mentre ieri alcune giovani donne hanno protestato davanti al Palazzo di Giustizia della città contro la sentenza. Di noi in Italia, l'ex senatore di Forza Italia Denis Verdini è stato condannato a 6 anni e mezzo di reclusione dalla Cassazione nel processo sul crack del credito cooperativo fiorentino. Estinta per prescrizione la condanna a 4 mesi per la truffa sui fondi di editoria, in appello era stato condannato a 6 anni e 10 mesi. Il suo legale Coppi ha fatto sapere che l'ex senatore si sta praticamente costituendo in questi momenti in carcere. E ora la rapina in banca avvenuta a Milano questa mattina. Come sono entrati, sono usciti dalle foglie. Hanno fatto proprio il buco nel pavimento. Così il direttore della filiale della Crédit Agricole, rapinata questa mattina, ha ricostruito la dinamica di quanto accaduto. Piano organizzato da giorni è scattato intorno alle 8.35, l'orario di apertura. I rapinatori sono sbucati da un buco nel pavimento collegato ad un cunicolo che passa dai sotterranei. Il direttore, 48 anni, è stato colpito alla nuca con il calcio di una pistola. Con lui una dipendente di 49 anni, mentre una terza collega, 30 anni, è riuscita a scappare e a dare l'allarme. I rapinatori si sono impossessati del contenuto di alcune cassette di sicurezza e sono fuggiti, sempre attraverso le fogne. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Flop al debutto per il sito per chiedere oggi il bonus bici e monopattini elettrici. Ira del ministro dell'Ambiente Costa, che ha chiamato gli amministratori delegati di Sogei, che gestisce il sito, e di Poste, che gestisce il famoso SPID, l'identità digitale, per chiedere loro di seguire in prima persona la vicenda e poi ha invitato i cittadini a entrare nel sistema anche nei prossimi giorni, garantendo che nella legge di stabilità ci saranno altri fondi ad hoc. E comunque poi invece ci saranno altri dettagli su questa vicenda tra poco qui a Effetto Notte. I viaggi di Radio 24. Seconda puntata di questo nostro viaggio nell'economia circolare dell'acqua. Oggi e domani sono le giornate dedicate alla 2 giorni green tra energia e clima, economia circolare, green city, al centro di un pacchetto di proposte per il rilancio verde dell'Italia attraverso i fondi della Next Generation dell'Unione Europea. È la 9ª edizione degli Stati Generali della Green Economy 2020. Uno dei punti centrali è il trattamento reflui e acque industriali, e di questo vi raccontiamo oggi con Francesco Fatone dell'Università Politecnica delle Marche, consulente scientifico di Ecomondo, al microfono di Laura Bettini. Quello che abbiamo fatto a Carbonera è stato recuperare in un impianto dimostrativo chili all'anno di biopolimeri biodegradabili, dalle acque reflue, quindi dai nostri scarichi. Questi biopolimeri sono stati poi utilizzati per diverse applicazioni. Innanzitutto sono stati mescolati insieme a scarti di plastica, cellulosa recuperata, quindi carta igienica recuperata sempre dalle acque reflue, e scarti di legno, per fare biocompositi, ovvero materiale che viene utilizzato per l'arredo urbano. Inoltre abbiamo anche recuperato fosforo in modo da avere dei fertilizzanti organici che, secondo alcune legislazioni europee, sono anche utilizzabili nell'ambito dell'agricoltura di precisione. Contestualmente al recupero di materia, noi abbiamo misurato i gas climalteranti che l'impianto emetteva per andare contestualmente a diminuire l'impronta di carbonio. L'investimento iniziale in quanto tempo verrà ripagato? Sì, ovviamente l'investimento dipende molto dall'economia di scala e dipende anche da quanto è concentrato il reflo. Noi abbiamo calcolato che il tempo di ritorno va dai 2 ai 7 anni a seconda della taglia dell'impianto e della concentrazione delle sostanze organiche nelle acque reflue. Il tema dell'omofobia, iniziative educative contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia dovranno essere svolte nelle scuole di ogni ordine e grado, quindi anche in quelle elementari. Lo prevede un emendamento della maggioranza alla legge sull'omofobia approvata dalla Camera. Il centrodestra aveva chiesto lo scrutinio segreto, che però non è stato accordato dalla Presidenza, e il centrodestra aveva presentato subemendamenti che escludevano scuole elementari e medie da questi programmi, e su questo c'è stato un lungo dibattito. Per chiudere, la Champions League maschile con nostro Giovanni Capuano, che ci aggiorna sulle partite. Giovanni. Sì, è una grande serata di calcio questa, si gioca da 18 minuti a Bergamo e a Madrid, c'è tanto da raccontare. Partiamo da Bergamo, dove l'Atalanta è sotto 1-0 contro il Liverpool. Il rete al 17esimo, gli inglesi con Diego Iota, che è stato smarcato solo davanti a Sportiello e l'ha superato con un cucchiaio, ma pensate che pochi istanti prima era stata l'Atalanta ad avere una grande occasione con Muriel. L'attaccante colombiano ha costretto il portiere del Liverpool Alisson a una grande respinta di piede. È la prima sfida della storia tra Atalanta e Liverpool. A Madrid invece, 19esimo minuto del primo tempo, parziale 0-0 tra Real Madrid e l'Inter. Inter che ha sofferto all'inizio, c'è stata una grande parata di Handanovic su una conclusione di Asensio al quarto, poi però è venuta fuori la squadra di Conte. Al decimo ha colpito una traversa con Barella, colpo di testa su traversone di Perisic, e al 14esimo ha sfiorato il palo con un grande destro di Vidal dal limite dell'area di rigore. 0-0 però il parziale. Nell'altra gara del girone, il Borussia Mönchengladbach ha vinto 6-0 in trasferta in Ucraina contro lo Shakhtar, e questo rende questa sfida tra Real Madrid e Inter quasi uno spareggio. A te la linea. Grazie Giovanni Capuano, poi ci racconterai come proseguono queste partite. Intanto ci fermiamo per aggiornare chi sta viaggiando e poi cominciamo a entrare subito nel cuore degli argomenti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ed eccomi con voi naturalmente in queste due ore. L'ho detto all'inizio, una puntata speciale di Effetto Notte, visto che fra le tante cose di questa giornata ricchissima c'è anche l'Election Day americano, le elezioni presidenziali. Roberta Giordano sempre con voi per i vostri messaggi, 349-238-6666, oppure pagina Facebook di Effetto Notte per le vostre riflessioni. Direi di partire subito collegandoci con Riccardo Barlam dagli Stati Uniti, anzi direttamente da Washington. Caro Riccardo. Sì, buonasera a tutti, sono a Pennsylvania Avenue, a poche centinaia di metri dalla Casa Bianca, che da maggio è blindata con due giri di recinzioni ed è rimasta così blindata, sembra una fortezza inespugnabile, prima ci si poteva avvicinare, ora si vede solo da lontano. E Washington, cosa dire, è vera questa cosa che si dice delle tensioni, perché ci sono in tutti i negozi del centro ci sono queste tavole perché temono appunto per parare le vetrine. Esatto, però devo dire oggi finora è tutto andato bene, ci sono file nei seggi, sono stato un paio di seggi, file ordinate, la gente è stata lì in ordine al mattino, non ci sono stati problemi, non ci sono state violenze finora, quindi va tutto bene. Meno questo male. Dato che ricordava Nava qualche minuto fa, dei 100 milioni di votanti anticipati, secondo il Dipartimento, gli Homeland Security dicono che sono 105 milioni, pensate, su 150 milioni totali, vuol dire che hanno già votato. Cioè hanno praticamente già deciso gli americani. Esatto. Però quest'anno il Covid ha cambiato tutto, anche questa cosa postale. Qui non si deciderà nella nota elettorale, ma hanno già in qualche modo deciso, e tutti dicono che i voti anticipati dovrebbero favorire i democratici. Infatti così sembra, anche se Trump non molla e prevede una grande vittoria. Tutto può succedere negli Stati Uniti, e per questo ci sentiamo dopo con il nostro Riccardo Barlam da Washington. Ciao Riccardo, a dopo. Ciao. Invece per quanto riguarda l'Italia, anche noi come tutti purtroppo siamo alle prese da tanto tempo con il coronavirus. Oggi è stata un'intensa giornata di riunioni nella maggioranza, nel governo, per riuscire ad arrivare, cioè trattative anche con le regioni, per riuscire ad arrivare a un'intesa su queste misure restrittive necessarie, visti i contagi così alti. Oggi vi dicevo nella prima parte, i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore sono 28.244, le vittime sono 353. Insomma, terapie intensive che sono ormai piene al 30% a livello nazionale, quindi numeri molto preoccupanti, e inevitabilmente insomma bisogna passare a delle misure più restrittive. Il famoso DPCM, un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Vi dico fra le altre cose che la Puglia è stata costretta a richiamare medici e infermieri in pensione, quindi immaginatevi la situazione un po' diffusamente. Poi oggi anche l'appello del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha chiesto unità istituzionale con collaborazione da parte di tutti. Tra l'altro, in Alto Adige si allunga la lista dei comuni in zona rossa, persino Bolzano lo è diventata, ce ne sono altri 11. Vi dicevo che ci sono delle anticipazioni rispetto al DPCM che dovrebbe essere firmato tra stanotte e domani, ma naturalmente voce autorevole su questo è Sandra Zampa, sottosegretaria alla salute, che ringrazio per essere qui a Effetto Noto in un momento così particolare di nuovo. Buonasera Zampa. Grazie a lei, grazie a lei. Senta, allora io sintetizzo appunto quelle che sono le misure principali di queste delle bozze che sono emerse. Allora, dal 5 al 3 dicembre il coprifuoco a livello nazionale dalle 22 alle 5, la capienza di bus e metro al 50%, smart working ai massimi livelli sia a livello di pubblica amministrazione che di privato, insomma del settore privato, poi stop alle crociere, chiusi i musei, mostre, sale bingo e casinò, centri commerciali chiusi nel fine settimana. Poi però ci sono le famose differenziazioni tra regioni che si trovano ad alto rischio e altissimo rischio, no? Il 3-4, scenario 4, scenario 3. Ci dice un po' man mano per punti principali, sottosegretaria Zampa, insomma, come stanno le cose? Dunque, la cosa più pesante, diciamo, di questo nuovo DPCM, in realtà la vera novità è che noi prevediamo che alle 22 si ferma tutto. Questo a livello nazionale, no, sottosegretaria? Questo è nazionale. Per chi si troverà nella zona rossa, e per il momento la curiosità che si è scatenata è che ognuno vuole sapere qual è la sua regione di riferimento, ovviamente io spero di fare questo elenco. Sottosegretario Zampa, la sentiamo male. Mi raccomando, stia proprio in un momento, in un punto dove si recepisce bene, dove c'è buona ricezione, perché siamo tutti in attesa, pendiamo dalle sue labbra per capire che cosa succede. Quindi diceva, il coprifuoco si prevede dalle 22 alle 5 a livello nazionale, poi però ci sono delle zone rosse e tutti vogliamo sapere. Anch'io sono in Lombardia, a Milano, mi piacerebbe naturalmente sapere. Le zone rosse, in realtà, è un lockdown più leggero, nel senso che resta la scuola elementare, resta la possibilità di uscire di casa per andare a lavorare, per quelli che non hanno la possibilità di fare smart working, insomma restano molte cose di più rispetto al lockdown pesante, però si chiudono tutte le attività, la ristorazione, i bar, tutte le attività, gli esercizi aperti al pubblico, c'è la sospensione di tutto questo, e quindi è oggettivamente una cosa piuttosto pesante quella che è in corso, che sarà in corso. Si tratta di un mese di tempo per abbassare radicalmente quella curva, e ovviamente noi ci attendiamo che questo avvenga. Qualche dato ci fa sperare oggi già che, diciamo, la ripresa sia, cioè che quell'aumento sia già in frenata. Speriamo che i prossimi 6-7 giorni ci consolidino un dato migliore. Senta, sottosegretaria Zampa, leggevo che la differenza da questa bozza tra le regioni che sono nello scenario 3 o quelle che sono nello scenario 4 è che in quelle che rientrano nel 4, in queste ultime, sono vietati anche gli spostamenti all'interno dei medesimi territori, quindi a livello comunale e provinciale? Sì, è così. Cioè, per esempio, lei non può andare in un altro comune a fare la spesa. Non posso andare in un altro comune neanche a trovare una persona cara, neanche una mamma di età piuttosto avanzata. Se ha una motivazione importante, ma non ho ancora capito se c'è l'autocertificazione, se non c'è, se bisogna mostrare un documento oppure no. C'è comunque in questo momento stato un ulteriore passaggio al Comitato Tecnico Scientifico, e l'ultima bozza è stata consegnata con anche, diciamo, le osservazioni del comitato, è stata consegnata mezz'ora fa al presidente Conte. Quindi secondo lei, intanto mi scusi sottosegretaria Zampa, con le regioni si è già raggiunto questo accordo? Vedevo che chiedono misure omogenee a livello nazionale. No, questo accordo è già stato raggiunto. Le misure omogenee sono quelle che rappresentano uno zoccolo uguale per tutti. ma che, parliamo di uno zoccolo uguale per tutti. Che è questo coprifuoco dalle 22 alle 5, quindi sì, in particolare? Sì, e poi tutte le limitazioni che già abbiamo, Quindi le 18 si sospendono, si chiudono i ristoranti, si chiudono i bar, è evidente che è un'altra cosa, insomma, tra essere o non essere nella zona rossa. La zona rossa, come le ho detto, comporta la sospensione di tutti gli esercizi pubblici, per esempio, quindi lei in un bar non ci può andare, può, credo, avere solo l'asporto. Senta, per quanto riguarda la scuola e le mascherine, leggevo che saranno obbligatorie sia alle elementari che alle medie le mascherine, quindi sì, per i bambini sopra i 6 anni, quindi da sopra i sì, 6 anni poi. Sì. Invece per l'attività motoria, che interessa molti... L'attività motoria resta comunque anche nelle zone rosse, si può uscire e andare all'aperto e fare jogging o corsa o una camminata, quello che è. Senta, ma tutto questo quindi quando dovrebbe essere firmato, nel senso stasera oppure Io sarà più facile? Confido che domani? Tra poco il Presidente Conte possa chiudere definitivamente il DPCM e quindi di qui a domani mattina quel DPCM essere pronto. Le misure in vigore ci ricordava quindi dal 5 novembre al 3 dicembre, almeno così per cominciare, per vedere che cosa succede. Abbiamo un mese davanti a noi. Senta, 5 novembre, mi chiedeva qualcuno, significa dalla mezzanotte del 4, da mezzanotte 1 del 4 o poi in giornata del 5? Dalla mezzanotte del 4. Quindi dal 5 significa dalla mezzanotte comunque del 4. Comunque alle 22 bisogna tornare a casa dalla sera del 5. Dalla casa del 5. Io farò sempre l'autocertificazione uscendo tardi qui dalla radio, per cui sì, lei ha fare ragioni di lavoro, ma se non sono ragioni di lavoro o ragioni, diciamo, di forza superiore, ognuno di noi, guardi, io ho telefonato a mia sorella, ho detto quando vengo a cena da te mi fermo a dormire. Direttamente, insomma, visto che non ci si può muovere oltre appunto le 22 a partire dal 5. Va bene, aspettiamo quindi l'ufficialità del DPCM. La ringrazio intanto per queste grazie anticipazioni. A lei, davvero. Grazie. Grazie, buon lavoro. Grazie, sottosegretaria Sandra Zan. E quindi, insomma, abbiamo avuto conferma di tutte queste anticipazioni che man mano sono state snocciolate oggi attraverso le agenzie, una dopo l'altra. Sicuramente, diciamolo, vedo vari che protestano, qualcuno che dice non sa se si vuole l'autocertificazione per spostarsi. Si vede che, questo lo scrive Davide, ci sono ancora alcune cose da limare, ancora alcune piccole cose da decidere, però l'abbiamo confermato man mano tutti i vari aspetti, dallo smart working a quali sono i negozi chiusi, le differenze nelle regioni tra scenario 3 e scenario 4, l'attività motoria l'avete sentito, le mascherine a scuola, bar e ristoranti, che rimane ovviamente la regola che c'è stata finora, e poi questo coprifuoco che è a livello nazionale invece dalle 22 alle 5. Tutto questo, ci diceva la sottosegretaria Zampa, a partire dalla mezzanotte un minuto del 4 novembre, quindi mezzanotte un minuto di domani. Ripeto, non fa piacere a nessuno tutto questo, tutti abbiamo voglia di vivere liberamente, di fare le nostre cose, di tornare a una vita normale. Evidentemente per il momento, come vediamo anche nel resto del mondo, purtroppo non è possibile. Mi fermo, pausa di riflessione, poi molti altri argomenti a partire anche da questa questione del benedetto click day per il bonus biciclette. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Giorno, tutti i giorni, tutte le sere, con Roberta Giordano con voi dalle 21 alle 22, dal lunedì al venerdì, è perché volete essere costantemente informati su quello che di più importante bisogna sapere dall'Italia e dall'estero. Vedo molti vostri messaggi al 349-238-6666, è la pagina Facebook di Effetto Notte, quel numero che ho detto è per i WhatsApp. A proposito delle anticipazioni del nuovo DPCM di cui abbiamo parlato con la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa, qualcuno che dice sono di Milano, dice questo ascoltatore Lorenzo, e devo stare un altro mese in prigione, stavolta in piazza a protestare, vado anch'io. Uno può protestare, per carità, se ritiene di avere buoni motivi per protestare, ovviamente bandendo la violenza, protestando in modo pacifico, dopodiché tutti vorremmo protestare, dicevo prima, avere la nostra vita libera, la nostra normalità. Evidentemente non è possibile, guardatevi intorno, guardate cosa succede anche solo in Europa, senza guardare il resto del mondo. Poi invece un altro ascoltatore dice: commercio al dettaglio è esercizio pubblico, avete capito voi, tutti i negozi resteranno chiusi nelle zone rosse, attenzione. Poi domani, una volta che sarà ufficiale il DPCM, ne parlerò qui effetto note anche con delle figure, dei giuristi e con il presidente funzionario di polizia, che ci spiegheranno bene quali sono i divieti, che cosa comportano, e poi avremo anche il testo del DPCM più chiaro con tutti i vari dettagli. Quindi domani ovviamente ci ritornerò qui effetto note. Adesso però voglio anche dare uno spazio a un argomento che oggi naturalmente non è così principale come le misure restrittive che stiamo aspettando siano ufficializzate e quali sono, per capire meglio fin nel profondo del dettaglio, e ovviamente le elezioni americane, di cui parlerò nella seconda ora stasera. Però anche questo è stato, ha reso ancora più intensa la giornata, quella del famoso click day per ottenere il bonus bicicletta. Diciamo che probabilmente chi è abituato ad andare in bicicletta, col monopattino, come volete, con qualche mezzo comunque piuttosto agile, è abituato, no, a fare, diciamo, una corsa a ostacoli. Ecco, quella di oggi è stata una lunga corsa a ostacoli. Dopo i vari flop dei famosi click day, cioè di quando si dice tutti potete inserire le vostre richieste quel giorno a partire da quell'ora fino al esaurimento di possibilità e così via, ecco, io direi che questa cosa, che era già andata male con l'INPS in altre occasioni, sarebbe il caso di bandire definitivamente, perché oggi è stato veramente un giorno delirante per questo bonus biciclette, tra il crash del video, del sito del Ministero dell'Ambiente, questo speed che tanti hanno fatto fatica anche ad avere nei mesi scorsi. Però la promessa era che non sarebbe stato un click day, che si poteva andare avanti anche per giorni, no? La cosa più intelligente sarebbe stata inserire la fattura in un sito e poi aspettare magari anche dei mesi che piano piano dagli operatori fossero smaltite le varie fatture, fossero rimborsate. Invece no, oggi l'assalto a questo sito praticamente. Io ne voglio parlare con Alessandra Schepisi, che tra l'altro è conduttrice di A Ruota Libera ogni domenica alle 16, in cui appunto parla di bici come alternativa alla routine di traffico, smog, socializzazione, eccetera eccetera. Cara Alessandra, allora, ciao, a me è sembrato un esercizio, oltre che una corsa ostacolo, anche un esercizio un po' sadico, perché c'era gente che diceva che era in attesa dietro 560.800 persone e cose così, numeri di questo tipo, cioè una roba veramente da delirio. Sì, una roba da delirio. Diciamo che l'assalto c'è stato, però era prevedibile dopo il boom di vendite di bici dallo scorso maggio in poi, dal successo anche di questa iniziativa, ma soprattutto la voglia di bici, insomma, era comunque nell'aria che ci sarebbe stato un assalto, però insomma era del tutto prevedibile. Tra l'altro, come hai detto anche tu, all'inizio era stata detto che non ci sarebbe stato un click day, ma sarebbe valso l'ordine cronologico delle fatture, non l'ordine di inserimento poi nel portale. Poi alla fine è stato questo click day, 500.000 di cittadini si sono collegati puntuali alle 9, insomma il portale è andato in tilt, lo speed delle poste non ha funzionato, forse perché era sovraccarico, è andato in sovraccarico, insomma le persone quindi hanno dovuto poi, dopo ore di attesa, ore di collegamento davanti al computer, hanno dovuto ricominciare da capo tutta la procedura, ritrovandosi altre centinaia di migliaia di persone davanti in coda. Diciamo, insomma, Alessandra, che fra l'altro qualcuno si sarà dovuto prendere un giorno di ferie, altri non so come sono riusciti a stare tutto il giorno fermi davanti a questo benedetto computer per riuscire a inserirsi in mezzo ai centinaia di migliaia di altre italiane e italiani che cercavano di accaparrarsi questo bonus, no? Qualcuno è andato in porto, ma una minima parte, mi sembra. Sì, Alessandra, anche quantificare insomma il calo di produttività poi della giornata di oggi, ma al di là di questo, ti do dei numeri proprio dell'ultima ora. Sono ancora in questo momento, sono 540.000 le persone in coda. Figurati. E sono le 120.697 i rimborsi andati a buon fine e 70.916 buoni emessi per gli acquisti futuri, perché ricordiamo che non ci sono solo i rimborsi ma anche dei voucher spendibili da qui al 31 dicembre entro 30 giorni. E questi voucher, tra l'altro, nella giornata di oggi già 1051 pezzi sono stati già venduti nei negozi nella giornata di oggi. Però se si fa un calcolo, praticamente se si sommano questi buoni già emessi più le persone che sono attualmente in coda, si arriva a 750.000, erano state previste in realtà 600.000, e il plafond residuo, ho qua il computer davanti, è 126 milioni su 215 stanziati. Dunque, insomma, i soldi non basteranno, difficilmente le risorse basteranno quelle attuali. Però il ministro Costa ha detto più volte, anche a noi Radio 24, ha detto, assicurato, tutte le richieste verranno soddisfatte. Alessandra, anche... visto che lo citi, siccome l'hai intervistato tu per Radio 24, sentiamo questo passaggio oggi del ministro Costa, che avrebbe assicurato che tutti siano rimborsati. Speriamo, perché finora come è andata, insomma, non so se fidarci. Sentiamo. Stamane è partito il bonus mobilità. Alle ore 15 ci informano che 66.000 cittadini sono rimasti soddisfatti tra i voucher e i rimborsi. C'è una lista d'attesa molto lunga, quindi grande interesse. Il sito ha inizialmente sofferto particolarmente perché c'è stato un interesse congiunto e nell'unità di tempo da parte di tantissimi. Io ho parlato personalmente con l'amministratore delegato della Sogei, l'amministratore delegato delle Poste Italiane, in particolare per la vicenda SPID. Stanno cercando le soluzioni tecniche per velocizzare il servizio e io assicuro che noi daremo soddisfazione nel più breve tempo possibile a tutti i cittadini richiedenti, e confermo anche che nessun cittadino verrà lasciato indietro, anche se le prenotazioni dei voucher o i rimborsi venissero fatte domani, dopodomani e nei giorni a seguire. Noi non lasceremo indietro nessun cittadino. È quello che ci auguriamo, così ha promesso oggi il ministro Costa, anche se insomma diciamo che nessuno aveva obbligato il governo e il Ministero dell'Ambiente a promuovere questa misura, questo bonus di cui si parla da mesi, tant'è che erano quasi introvabili le biciclette in giro praticamente nei negozi. Però una volta che ha deciso di farla questa misura, cerchiamo di portarla in porto, no? Di concretizzarla. Dice un ascoltatore: la cosa più allucinante è che il governo e le Poste Italiane non siano in grado di offrire dei siti siti internet, dei servizi telematici, insomma, che funzionino, no? Effettivamente c'erano mesi per organizzare questa cosa. Alessandra, quant'è che si parla di questo bonus biciclette? Se ne parla da maggio scorso . E c'erano mesi in cui è stato assicurato che insomma tutto quanto avrebbe funzionato perfettamente, e poi c'è il solito rimpallo di responsabilità. Adesso insomma si dà la colpa non a Sogei, che ha, diciamo, si è occupato della piattaforma buonamobilità.it, ma delle Poste, perché appunto uno dei problemi principali è stato appunto il blocco del collegamento al sito delle Poste per l'identità digitale. Ma insomma era tutto abbastanza prevedibile. Speriamo che, al di là della perdita di tempo di una giornata intera o forse più, forse qualcuno anche durante la notte sarà attaccato al computer, alla fine ci sarà il rimborso per tutti. Il ministro ha detto che se non basteranno questi 215 milioni di euro ci saranno altre risorse in legge di bilancio. Che però la legge di bilancio parte da gennaio, no? Gennaio, prima no, giusto? Sì, ma infatti i rimborsi arriveranno nei prossimi mesi, non arriveranno a giorni. Poi c'è anche da dire che molte persone hanno scaricato un voucher per comprare delle bici, però non tutti potrebbero spenderli. Allora il ministero conta, insomma, di rimettere questi soldi nel sistema, a vedere poi quante persone avranno effettivamente speso quei soldi. Quindi, insomma, dovrà fare un calcolo finale. Che finora è stato un po' un flop questa giornata, veramente delirante. Io dico che bisogna essere un po' sadici per sottoporre centinaia di migliaia di persone a questa roba. Speriamo che nei prossimi giorni davvero la cosa vada a buon fine, che funzioni, che tutto sia più fluido, senza bisogno, insomma, di stare a appiccicati per chi può, per chi si è preso davvero un giorno di ferie, appiccicati così al computer. Insomma, se si promette una misura che era necessaria o non necessaria, a questo punto deve essere poi realizzabile. Grazie Alessandra Schepisi, ricordo, è conduttrice di A Ruota Libera, seguitela, è ogni domenica alle 16. Vai a Ruota Libera, Alessandra, grazie. Grazie Roberta, ciao. Ciao cara Alessandra. E a proposito di Ruota Libera, viabilità, tra poco. Effetto Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. E adesso comincerei, sempre Roberta Giordano con voi, in questa puntata ricchissima che vi dico eccezionalmente va avanti sino alle 23, perché ci sono in ballo le elezioni americane che riguardano gli Stati Uniti, ma riguardano ovviamente tutto il mondo. Dicevo, cominciamo quindi ad addentrarci nell'election day, in questa giornata cruciale, in cui abbiamo detto che però già moltissima parte della popolazione americana ha votato, perché c'è anche il voto postale, si vota in anticipo, poi ci faremo spiegare questo complesso sistema elettorale americano. E voglio cominciare questa passaggio dall'altra parte dell'oceano di questa puntata con Arianna Farinelli, che è docente di scienze politiche al Baruch College della City University di New York, autrice di Gotico Americano, pubblicato da Bompiano, un libro di grandissimo successo, un romanzo che racconta la storia di Bruna che per amore e lavoro decide di emigrare negli Stati Uniti e poi si scontra con una realtà che è ben diversa da quella del famoso sogno americano, sullo sfondo l'America che ha scelto Donald Trump, quindi quella che parte dal 2016. Arianna Farinelli, buonasera e grazie di essere qui in collegamento. Buonasera. Con Effetto Notte. Buonasera. Se lei dovesse dire quali sono le principali differenze tra l'America del 2016, visto che lei vive lì e ha ambientato anche il romanzo a partire da quel periodo, e l'America di oggi, naturalmente al netto del Covid, perché sappiamo che ha una importanza fondamentale anche per gli Stati Uniti ovviamente. Guardi, io 4 anni fa mi trovavo la sera delle elezioni sul grattacielo dell'Associated Press per fare il commento alla notte elettorale in diretta da New York. In questo momento mi trovo su un altro grattacielo, però sono a Washington per fare sempre il commento alla notte elettorale, e venendo qui ci sono pochi isolati dal mio albergo allo studio televisivo, sono passata in quella che oggi viene chiamata Black Lives Matter Plaza, cioè questa strada molto vicina alla Casa Bianca. Io sono in linea d'aria vicinissima alla Casa Bianca, che tra l'altro è stata completamente recintata, e sulla Black Lives Matter Plaza c'erano tantissimi ragazzi, tantissime telecamere, tamburi, si faceva festa, però devo dire un'aria tesissima, tantissimi poliziotti, tutti i negozi completamente blindati da tavole di legno che sono state messe a protezione delle vetrine in tutte le grandi città americane. Io stamattina ero a New York, sono venuta qui in aereo, e a New York la stessa cosa, tutti i grandi magazzini, tutti i negozi di lusso, addirittura i palazzi, incluso il mio, hanno preso una sicurezza, una private security, una sicurezza privata, cioè degli agenti privati per monitorare la situazione contro la possibilità di vandalismi, contro la possibilità di scontri, quindi un'area tesissima. Detto questo, però, grandissimo entusiasmo, 100 milioni di persone che hanno votato. Voi pensate che nel 2016 votarono circa 135 milioni di persone, quindi il 75% di chi aveva votato nel 2016 ha già votato, e molti milioni voteranno, stanno votando in queste ore. Qui siamo a meno di 4 ore dalla chiusura dei seggi sulla costa orientale. Ci sono delle dichiarazioni da parte del presidente che hanno suscitato molte polemiche, cioè il fatto che il voto per posta è fraudolento secondo Trump, potrebbero sì, secondo lui, ma non ci sono studi scientifici che dimostrino questo, e che ci potrebbero essere degli scontri. Ecco, il fatto che il presidente dica il voto è fraudolento, per cui ci potrebbero essere degli scontri, è una cosa che fa preoccupare tutti enormemente. E quindi è un'America molto diversa da quella del 2016, dove io ricordo andavo a commentare le elezioni guardando il sito del New York Times sul telefono, che dava ancora la vittoria di Hillary Clinton all'85% delle probabilità. Quindi Farinelli, intanto la chiamo professoressa Farinelli, lei è docente universitaria, quindi ci mancherebbe, professoressa. Quindi lei dice appunto una sempre grande entusiasmo nel voto, nella partecipazione delle americane e degli americani, però allora non c'era tutta questa tensione, addirittura negozianti che si barricano dentro, che mettono queste tavole per proteggere, quindi la grande tensione di cui si è parlato anche nelle ultime settimane, soprattutto dopo, lo ricordava lei, che il presidente Trump ha detto che non è sicuro di voler riconoscere poi il risultato, specie se poi si dovesse vincere Biden, ma di poco, no? Questo è un po' il rischio. Ecco, ma in realtà oggi la Fox, che è la sua televisione di riferimento, ha detto che diciamo questo tema si è un po' ammorbidito, però ha detto che, e questa è una cosa importante, non dichiarerà la vittoria prima di essere assolutamente sicuri che appunto abbia vinto. Mm. E questo è il punto, perché noi con questo voto che viene fatto via posta potremo non avere i risultati per qualche giorno, potremo avere delle proiezioni, delle tendenze nei vari stati. Ecco, stasera è importante guardare la Florida, perché lì le schede si contano prima, nel senso come arrivano vengono scrutinate e contate. Mm. E invece la Pennsylvania, stato super chiave, senza il quale Biden non vince, non arriva alla Casa Bianca, non arriva ai 270 grandi elettori che gli sono indispensabili, lì le schede si contano da oggi, non si possono contare prima, e quindi ci vorrà del tempo, non solo, ma anche le schede che sono state affrancate e quindi sono state mandate per posta prima del 3, ma che arrivano dopo il 3 novembre, sono sempre considerate valide, quindi ci potrebbero volere molto tempo, no, per sapere il risultato. Senta, professoressa Farinelli, prima di salutarla, mi dica proprio sinteticamente lei che cosa si augura. Dunque, preferisco parlare come politologa e non come cittadina americana. Come politologa, Biden è avanti di circa 10% a livello nazionale, è avanti di poco negli stati chiave. A Biden bastano soltanto 3 stati, oltre a quelli che aveva vinto Clinton nel 2016, cioè la Pennsylvania, il Michigan e il Wisconsin, per arrivare a più di 270 grandi elettori. La strada per Trump è molto più accidentata. Se perdesse la Florida, se perdesse la North Carolina, se non conquistasse uno di questi stati che ho appena nominato, i stati del Blue Wall, del muro blu, quelli dei laghi, Wisconsin e Michigan, ma anche Pennsylvania, se non conquistasse almeno uno di questi, per lui sarebbe molto difficile. Però il presidente ha fatto tantissimi comizi negli ultimi giorni, è l'uomo delle rimonte, una grandissima energia, c'è molto entusiasmo ai suoi rally. Che questo significa che tutto può essere, l'America è sempre sorprendente, vedremo. Appunto, anche nel 2016 sembrava che Hillary Clinton dovesse assolutamente vincere a mani basse, invece è andata come è andata. Professoressa Arianna Farinelli, so che lei ha una lunga nottata, quindi la ringrazio moltissimo e la saluto dagli Stati Uniti. Grazie mille. Grazie. Marco Valsania, nostro corrispondente, anche lui dagli Stati Uniti. Caro Marco, senti, i sondaggi dicono appunto, Nate Silver, che è un po' il mago dei sondaggi, dice che Biden ha l'89% di possibilità di vincere, mentre il manager della campagna di Jeb Bush, fratello di George Bush, dice che Trump vince sicuramente le elezioni. Prima di lasciarci e di riprenderci dopo, che cosa si dice, Marco? Cosa ti sembra più probabile? Ma sicuramente a bocce ferme sulla base dei sondaggi più attendibili. Cioè, esistono alcuni sondaggi che danno costantemente delle maggiori chance a Trump, un paio in particolare, però diciamo hanno tradizionalmente un bias conservatore, quindi non sono considerati tra i più, diciamo, i più attendibili. La maggior parte dei sondaggi, come ricordavi tu, danno in questo momento appunto una fotografia favorevole a Biden, ma non certo una garanzia, quello che ricordavate prima, cioè c'è questo vantaggio su scala nazionale dell'8-10%, ma negli stati chiave questo vantaggio scende a volte al 5-6-7, e quindi diciamo margini di errore ci possono essere, ma non solo margini di errore, anche margini che potrebbero essere colmati da particolarmente straordinarie mobilitazioni di una fascia elettorale o dell'altra. E poi, sicuramente Trump poi questo conta, cioè l'ultimo così sprint dei suoi elettori, di questo elettorato popolare bianco, potrebbe che vada alle urne, pendere, diciamo, da una parte anziché dall'altra. Marco Valsana, tanto ci sentiamo anche dopo, nella prossima ora, a partire dalle 22 fino alle 23. Grazie Marco Valsana, ci ritroviamo tra pochissimo. A voi. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci quindi insieme, Roberta Giordano eccezionalmente con voi anche per questa seconda ora dalle 22 alle 23, perché questa parte è la speciale sull'elezione, Election Day in America, il giorno delle elezioni, il 3 novembre, capita questa volta, ma è sempre il primo, per tradizione, il primo martedì di novembre in cui si tengono le elezioni presidenziali ogni 4 anni negli Stati Uniti. È in collegamento il nostro Sergio Nava, caro Sergio, abbiamo ritrovato prima naturalmente. Sergio, allora, lo chiedevano varie ascoltatrici e ascoltatori, ma già te avevo detto io che una cosa importante con cui iniziare intanto capire come funziona il complesso, complicato sistema elettorale americano. Vorrei che tu lo spiegassi in modo talmente semplice che anche i bambini di quinta elementare che dovessero ascoltare in questo momento Effetto Notte, faccio loro i complimenti, devono capire come funziona. Sergio. Proviamo a farlo anche per i bambini di seconda o prima elementare. Molto bene, con mascherina o senza mascherina. Roberto? Sì, prego, assolutamente. Innanzitutto scordatevi ovviamente il nostro sistema elettorale, perché assomiglia, se vogliamo trovare un paragone, un termine paragone in Europa, a quello britannico, forse più che ai nostri, diciamo, dell'Europa continentale. Non c'è, è importante dire, non c'è un'elezione diretta del presidente, ma un'elezione mediata, perché gli elettori scelgono dei rappresentanti nei loro collegi, che sono gli stati, rappresentanti a livello di stato, ciascuno dei 50 stati americani, che poi andranno a fine anno, a dicembre, a riunirsi e a eleggere fisicamente il Presidente degli Stati Uniti. Per essere eletti servono 270 di questi voti dei cosiddetti grandi elettori, sono 538 grandi elettori, ne servono 270. Ogni stato ha un certo numero di voti, per esempio la California ne ha 55 perché è uno stato molto popoloso, mentre invece ci sono stati che ne hanno molti meno, per esempio l'Alabama, 9 grandi elettori e così via. È importante dire anche che questi grandi elettori non sono proporzionali alla popolazione, molti stati con poca popolazione hanno un numero proporzionalmente più elevato. Perché? Di grandi elettori rispetto. Perché, Sergio? Perché è un sistema che arriva da secoli fa, non è un sistema ovviamente di questo secolo, ma è il sistema del 1800, e sostanzialmente si tendeva, fu frutto fondamentalmente di un compromesso questo sistema, per cercare di mettere tutti quanti un po' d'accordo ed evitare che stati con più remoti o con una scarsa popolazione poi si sentissero, come dire, dimenticati o sottorappresentati. Per paradosso, però, negli ultimi anni questo sistema ha favorito molto di più il partito repubblicano, perché sappiamo bene il partito democratico si concentra di più nelle grandi città, nei grandi centri urbani, mentre il partito repubblicano tende di più a essere radicato nel cuore dell'America, nell'America profonda, l'America profonda. Centrale, in America profonda. Quindi, fondamentalmente, per fare un esempio molto concreto, sì. Hillary Clinton vinse il voto popolare per 3 milioni 4 anni fa, ma non divenne presidente degli Stati Uniti perché Donald Trump ebbe più grandi elettori. Quindi, se vogliamo spiegarlo, Sergio, quindi gli americani, il popolo votò in maggior parte Hillary Clinton, però i grandi elettori, che sono poi quelli che contano, cioè i rappresentanti degli elettori, hanno votato invece in maggior numero Trump. Questo è stato il risultato? Fu esattamente quello della grande paura di Biden adesso, perché tutti i principali sondaggi lo danno ampiamente in vantaggio, ma lui teme un ripetersi di quello scenario Clinton, in cui alla fine va a vincere il voto popolare, ma poi, proprio per questa suddivisione estremamente frammentata, sostanzialmente i grandi elettori, quindi l'America più profonda, alla fine non gli dà la presidenza degli Stati Uniti. Sergio, e in questo entrano gli stati chiave, non so se ne vogliamo parlare più tardi, ma sì, magari dopo degli stati chiave. Diciamo anche che, oltre a ovviamente eleggere il presidente degli Stati Uniti, si vota anche per rinnovare una parte consistente del Congresso, quindi il Parlamento americano. Per quanto riguarda la Camera, l'intera Camera dei rappresentanti, che per ora è in mano ai democratici come maggioranza, e un terzo del Senato, che invece è in mano ai repubblicani. Di questo parleremo dopo, Sergio. Intanto hai spiegato molto bene, mi sembra. Vediamo poi il consenso delle ascoltatrici e ascoltatori sulla tua spiegazione, che a me pare sia stata molto chiara, del sistema elettorale americano. Intanto saluto Paolo Magri, vice direttore esecutivo dell'ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Buonasera Magri, benvenuto. Buonasera, grazie. Allora, con Magri, grande esperto di geopolitica, io vorrei sapere, secondo lei Magri, come è cambiato, in sintesi, proprio per punti principali, lo scenario internazionale dal 2016, quando fu eletto Trump, a oggi? Tantissime cose sono cambiate, no? In tanti scenari, dalla Siria, la Libia, la Turchia, e oggi, al netto del Covid, che naturalmente è stato un elemento che è piombato sul mandato di Trump nella parte finale, che potrebbe essere quello che potrebbe azzopparlo, ma adesso vedremo, insomma, non diamo nulla per scontato. Se dovesse dire in sintesi appunto come è cambiato lo scenario internazionale da allora, da 4 anni fa ad adesso? il Medio Oriente era nei pasticci ed è tuttora nei pasticci, perché le grandi crisi che ci sono erano presenti già nell'epoca Obama. Penso alla Libia, penso alla Siria. La novità è il nuovo ruolo nel Medio Oriente della Turchia, e Trump ha dato una mano, il maggior ruolo della Russia nel Medio Oriente. Poi l'altra novità è che la Cina, che era già una potenza, è ancora più una potenza, e qui è difficile dire al netto del Covid, nel senso che il Covid ha accelerato questo, sta accelerando questo ruolo, perché la Cina, certo, va avanti e gli altri vanno indietro. E complessivamente, chiuderei, è un mondo ancora più complicato, ancora più diviso, e forse Trump ci ha messo del suo nel renderlo più complicato e diviso. Parlo soprattutto degli sforzi multilaterali. Senta, invece mi sembra, Magri, per esempio, che appunto per quanto riguarda la geopolitica, gli equilibri internazionali, per esempio l'Iran, che era riuscito a raggiungere un accordo sul nucleare con Obama, poi invece è stato infranto da Trump, spera che possa vincere Biden per riprendere di nuovo, no, a proposito di uno Stato che con Trump si è trovato in una posizione completamente diversa dagli Stati Uniti, spera che con Biden di riallacciare un po' dei rapporti diplomatici. E qui entriamo nel scenario di chi brinda e di chi avrà il muso lungo stanotte dopo il risultato. E qui è facile, lo facciamo con l'accetta per semplificare. Sì. Se avessimo un Trump 2, è facile pensare a dei brindisi in Israele, Netanyahu, in Arabia Saudita, ma anche tutto sommato sicuramente in Russia, o a Istanbul con Erdogan, o al Cairo, cioè gli uomini forti ai quali Trump ha schiacciato l'occhio in più occasioni, ha lasciato abbastanza spazio, voluto o legato ai pasticci di credibilità che lui aveva nel mondo. Qui ci porta invece al rovescio della medaglia, cioè se vincesse Biden, è chiaro che qualche bottiglia, no, le bottiglie non si stappano, ma formalmente, ma qualche brindisi a Coca-Cola, a Teheran, lo diceva lei poco fa, ci sarà, perché Biden tornerebbe a un rinegoziato accordo sul nucleare, magari non lo stesso, ma non la chiusura di ora. Ma io credo che qualche brindisi ci sarebbe nei corridoi della NATO, dai compassati generali della NATO, che sono stati sulla bagnasciuga in questi anni: la NATO serve, non serve, bisogna pagare di più, la chiudiamo, e soprattutto nelle cancellerie europee. Per le cancellerie europee, per l'Europa, Trump è stata la tempesta perfetta, e Biden, lo Sleepy Joe come lo chiama Trump, è la quiete dopo la tempesta in un certo senso, nel senso che rappresenta una figura di americano internazionalista più tradizionale, che ovviamente farà gli interessi americani come tutti i presidenti americani l'hanno fatto, ma che con l'Europa potrebbe avere un rapporto meno disgregante. Trump, siamo ancora un secondo, sì, certo, ha scommesso sulle forze che disgregavano l'Europa. Cioè, tutti i presidenti americani hanno un po' giocato il divide timpera con l'Europa, con il ruolo della Gran Bretagna, con la Polonia e altri paesi. Trump si è nettamente schierato con chi voleva staccare un pezzo dell'Europa, la Brexit, con chi voleva minarla dall'interno, i movimenti e i partiti anti-europei, con paesi devianti come la Polonia e l'Ungheria dal punto di vista della democrazia. Ha dato spazio fuori d'Europa a Russia e Turchia, che sfidavano i confini europei con la loro attività in politica estera. Quindi Trump ha rappresentato la sfida totale. Biden, diversamente, è più vicino alle tradizioni del rapporto America-Europa. Dove Biden potrebbe deludere gli europei, e chiudo, è sul rapporto con la Cina e sul protezionismo. Lì grandi rivoluzioni, certo, cambiamenti di toni, di stili, ma grandi rivoluzioni in breve periodo sono impensabili. Nei confronti della Cina, dice, la politica economica sì, rimarrebbe più o meno simile anche da parte di Biden, con toni diversi. Anche l'antagonismo, nel senso che, cioè, tutti i presidenti americani, ci siamo abituati a sentirlo dire a Trump, tutti i presidenti americani professano e attuano America First. Trump lo strombazzava in modo plateale, ma America First è la regola di ogni presidente eletto, America First, cioè i miei elettori. In questo momento America First vuol dire tenere la China Second, e China Second in qualche modo Trump l'ha fatto con i dazi, Trump l'ha fatto con le accuse sul virus, Biden potrebbe farlo, è davvero lo studio questa ipotesi, creando una nuova coalizione delle democrazie, cioè una sorta di G10, D10, che di fatto esclude la Cina, non come il G20 che è dentro la Cina, cioè contenere la Cina, isolarla e portarla, obiettivi, a più miti consigli. È una strategia complessa, sappiamo che in America da sempre, sia con la Russia che con la Cina, si dibatte fra il conflitto, il contenimento, il dialogo, però questo potrebbe essere lo scenario. Intanto Sergio Nava, invece stavamo riprendendo appunto la questione del sistema elettorale che hai spiegato molto bene a grandi linee, dicevamo che quindi non si elegge soltanto il presidente, che però ovviamente è quello che vediamo come la cosa più importante, ma anche il rinnovo del Parlamento, del Congresso americano, no? Sì, una cosa importante che ho dimenticato di dire prima parlando di sondaggi è che diciamo tutti i sondaggisti prevedono Biden abbia già circa 220 indicativamente grandi elettori in tasca, quindi gli mancherebbero una cinquantina per farcela. Trump parte invece da 100-120, quindi la scalata di Trump è comunque molto più complicata, anche se nulla è impossibile, non dimentichiamo il risultato di 4 anni fa. Passando alla Camera, la Camera è completamente da rieleggere e quindi qui non si prevedono grandi scossoni, bisognerà solo capire quanto rimarrà democratica in termini di maggioranza, ma sostanzialmente si prevede la Camera rimarrà a maggioranza democratica, bisogna vedere se si assottiglierà o meno, ma la vera contesa è sul Senato. Il Senato è anche più importante, non dimentichiamolo, della Camera negli Stati Uniti, perché ratifica trattati internazionali e vota anche sui giudici della Corte Suprema, e abbiamo visto quanto siano importanti questi giudici della Corte Suprema negli ultimi giorni, con la polemica che c'è stata anche con la nomina di una giudice simpatizzante, pertanto conservatrice, insomma, no? Più che altro portata avanti da Trump, nonostante di fatto l'abbia nominato un mese prima delle elezioni, con uno sgarbo diciamo istituzionale non da poco, vista la tradizione invece diceva che il presidente in uscita normalmente non nomina giudici, ma qui i democratici devono conquistare 4 senatori. Sono a rischio in Alabama, e quindi perderebbero il senatore dell'Alabama, ma potrebbero farcela in Arizona, Colorado, Maine e North Carolina. Se ce la fanno, a quel punto prendono anche il controllo del Senato e si verificherebbero 2 possibili scenari. Biden presidente con Camera e Senato democratici, a quel punto si cambia completamente il quadro politico negli Stati Uniti, o un Trump presidente, ma di fatto anatra zoppa, perché ha l'intero congresso contro. Chiaro. Sergio, quindi da tenere molto sott'occhio il Senato. Prima di tornare al nostro Riccardo Barlam a Washington, volevo chiedere ancora a Paolo Magri, vice direttore esecutivo dell'ISPI, prima di lasciarlo. Allora Magri, lei prima ha fatto un quadro della geopolitica, degli scenari internazionali, come sono cambiati appunto dal 2016 a oggi e come cambierebbero a seconda di chi vincesse, insomma, i rapporti diplomatici con i vari stati. Invece, se dovesse dire che cosa cambierebbe negli Stati Uniti con la vittoria di Trump, oppure quindi riconfermato, oppure quella del democratico Biden, Magri? Entrambi avrebbero come priorità la ricostruzione del paese dalla crisi sanitaria ed economica, ed è pensabile che potrebbero fare cose simili, un grande piano di stimoli, un intervento straordinario. La differenza potrebbe essere nel clima sociale. Una presidenza Biden lavorerebbe immediatamente per ricomporre la frattura pesantissima, e vedremo cosa succede in questi giorni in proposito, che c'è negli Stati Uniti, frattura, ricordiamolo, non iniziata, la contrapposizione, le divisioni, non iniziate con Trump, ma accelerate da Trump. Biden potrebbe cercare di riunire l'America. Pensare che Trump, dopo i primi 4 anni, possa lavorare su questo e non continuare invece a caldeggiare, a secondare il suo elettorato, quel 45%, vedremo quanto è stasera, è un po' più difficile. Quindi economia simile, infrastrutture, sussidi, interventi, sulla questione sociale interna è difficile pensare che Trump cambi strada. È molto facile pensare che Biden cerchi di realizzare quello che ha detto in tutta la campagna. Paolo Magri, io la saluto e la ringrazio, grazie del suo intervento qui a Effetto Notte, grazie, ricordo vice direttore esecutivo dell'ISPI, grazie Magri. Buon lavoro, grazie a voi. E buona serata. E torno al nostro Barlam. Riccardo, senti, ci dici che quali sono stati i punti positivi della presidenza Trump e quelli negativi, anche che cosa aveva promesso e cosa non ha mantenuto? Ciao Riccardo, di nuovo. Allora, il punto principale della presidenza Trump dal punto di vista economico è stata questa riforma fiscale, che è stata la più importante degli ultimi 40 anni, a detta di molti, e che ha lanciato l'economia del paese fino a prima del Covid. E lui ha tagliato le tasse alle aziende dal 35 al 22%, ha favorito il rientro dei capitali delle aziende, evitando la doppia tassazione, sono rientrati 3.000 miliardi di dollari negli Stati Uniti. Tutto questo ha avuto un effetto volatile, ha rivisto anche gli scaglioni delle imposte sul reddito alle persone, li ha abbassati. Questo è stato un volano per l'economia prima del Covid, però ha fatto aumentare il deficit, il debito pubblico a livelli record, mai come prima, e adesso col Covid la cosa è ancora di più peggiorata. E dopo il Covid è cambiato tutto, diciamo. Quello che tutti invece dicono che abbia sbagliato, dove abbia sbagliato Trump, a parte la politica internazionale, è stato ricordato il suo atteggiamento isolazionista contro la politica multilaterale. Di fatto l'America dal dopoguerra era sempre stata la guida della comunità internazionale democratica, e con Trump si è tirata un po' indietro. Domani proprio, il 4 di novembre, se dovesse vincere Trump le elezioni, va in porto la ratifica dell'uscita degli Stati Uniti dagli accordi di Parigi sul clima, quindi da domani gli Stati Uniti non sono più dentro all'accordo internazionale sul clima, e se vince Biden ovviamente la cosa cambierebbe. E poi un'altra cosa che invece molti criticano di Trump è stata questa sua politica protezionista, gli stessi americani, le stesse aziende americane, che di fatto non ha diminuito il disavanzo fiscale con la Cina, il disavanzo commerciale con la Cina, ma ha appesantito ancora di più il conto per le aziende americane che devono pagare questi dazi, oltre ad aver irrigidito, creato tante difficoltà con i paesi alleati con cui appunto ci sono tradizioni di scambi commerciali come l'Europa, l'Italia. Questa storia dei dazi insomma non ha aiutato. Quindi direi, prima del Covid Trump era fatto bene nell'economia, la borsa era ai massimi, la disoccupazione ai minimi, ma il Covid ha cambiato tutte le carte, e credo che sarà, se confermato quello che si dice nei sondaggi, sarà la caporetto di Trump questa sua mala gestione del Covid, sia in termini sanitari che economici. Io in questo momento sono davanti alla Casa Bianca, a Washington, sì. A Washington, davanti al parco di Lafayette, che di solito da qui si vedeva la Casa Bianca. Ci sono i manifestanti anti-Trump, fa impressione vedere la Casa Bianca così da lontano, con questi due giri di cancellate blindate, i soldati in assetto antisommossa. Insomma, dà l'idea di un paese diviso, lacerato da questa presidenza, e così vedere la Casa Bianca da lontano è già di per sé, già spiega questa cosa qui, ecco. Senti Riccardo, tra l'altro vedo rally di Wall Street nel giorno del voto dell'America, Dow Jones chiude a più 2,05%, come lo spiegheresti il fatto che sia andato bene quando ancora appunto c'è questa incertezza? Ci sono appunto l'attesa di questa vittoria. Si parla di questa onda blu dei democratici, e quindi questo scenario in cui si rischia anche di fare il bottino pieno con la conquista del Senato, in realtà favorisce i mercati finanziari, perché rende le cose più chiare. C'è uno che ha vinto a punteggio pieno, nel caso succeda questo, e quindi i mercati finanziari, nonostante le misure anticipate da Biden, tipo l'aumento delle tasse, loro dicono anche che ci saranno effetti molto positivi dalle altre misure che Biden ha presentato, tra cui è già stato ricordato il piano da 2.000 miliardi per rilanciare il paese dal Covid, che vuole subito, al primo giorno ha detto che approverà, e poi tutti i piani infrastrutturali, i piani per l'energia verde, insomma tutte misure espansionistiche keynesiane, potremmo dire, che i mercati finanziari vedono con favore, ecco. Nonostante, diciamo, di solito i candidati moderati repubblicani vengono preferiti dai mercati finanziari, ma in questa presidenza così tormentata, evidentemente l'instabilità, anche questa vivacità di Trump, diciamo così, ha lasciato il segno anche su Wall Street. Sergio Nava, intanto ci sono, so che tu sei anche in collegamento con i vari siti americani, c'è qualche aggiornamento? Ma diciamo che un aggiornamento molto curioso riguarda proprio Trump, perché Twitter ha messo un'etichetta su un tweet di Trump relativo alla Pennsylvania. Perché allora Trump sta insistendo molto che in Pennsylvania, che comincerà a scrutinare i voti arrivati per posta, quindi diciamo i voti pre 3 novembre, solo dopo, quando lo scrutinio dei voti che sono stati insomma fatti oggi, sono stati portati oggi dagli elettori, Trump dice che tutto ciò può essere in qualche modo portare a brogli o comunque irregolarità. E Twitter ha etichettato, ha segnalato questo tweet, perché in realtà una corte federale ha detto che tutto questo è possibile. Fino a venerdì in Pennsylvania si potranno scrutinare, si potranno conteggiare i voti arrivati postati prima di oggi, quindi comunque entro la scadenza. E la Pennsylvania è un campo di battaglia, non dimentichiamolo, incredibile in questa campagna, perché è andata per 40.000 voti a Trump 4 anni fa. È stata martellata da entrambe le campagne. Oggi lo stesso Biden è andato in Pennsylvania, nella sua casa natale di Scranton, e poi è andato anche a Filadelfia e poi diciamo è tornato in Delaware, dove abita, da dove seguirà la notte elettorale. E quindi c'è un'altissima attesa. Si pensa addirittura che ipoteticamente, poiché si ipotizza che la maggior parte degli elettori democratici, una buona parte degli elettori democratici abbia già votato anticipatamente, inizialmente la Pennsylvania sarà rossa e quindi repubblicana, e poi potrebbe però diventare blu, ma questo magari non subito, e generando ovviamente una certa confusione. È chiaro, c'è una grossa incognita, okay, insomma, no? Per il voto postale, sì, per il fatto che andrà avanti il voto per un po'. Io voglio chiedere intanto a Riccardo Barlam. Riccardo, ci fai un sintetico ritratto, profilo di Trump e uno di Biden? Come dire, Trump, diciamo, vabbè, la prima cosa che abbiamo visto, Trump, insomma, in questi 4 anni, però il ciuffo giallo. Che a un certo punto avevo diciamo scoperto chi era la società italiana che realizza gli abiti sartoriali per Trump, e a differenza di quanto non succedeva per esempio con la moglie di Obama. E quando provo a dire: ma posso scrivere che voi fate i vestiti a Trump? E loro mi hanno detto: guardi, sarebbe meglio di no, perché potrebbe essere pubblicità negativa. Questo fa capire anche la poca popolarità di cui gode il presidente in questo momento. Diciamo, sono tutte e due candidati ultra settantenni. È la prima volta che succede che le elezioni americane hanno due candidati sopra i 70 anni. Tutti e due, se vince Trump o se vince Biden, resteranno solo per un mandato, perché Trump sarebbe il secondo, a meno che non fa un colpo alla Putin, e dovrebbe andare via fra 4 anni, e Biden ha già detto, per età, a 77 anni, andrà via. Biden è un uomo delle istituzioni, più moderato, che non piaceva ai democratici, ai giovani soprattutto, che preferivano figure più progressiste, Elizabeth Warren e Bernie Sanders, ma proprio questo suo essere moderato paradossalmente lo ha favorito. E diciamo, più che vincere Trump, Biden, se dovesse vincere, vince l'antitrumpismo, perché l'antitrumpismo è stato il collante che ha unito il fronte democratico come mai prima d'ora. E poi, se posso riprendere la cosa che diceva Sergio Nava, sì, i social sono stati molto importanti, perché questa volta loro dovevano in qualche modo migliorare la loro reputazione, e quindi hanno da più di un mese qui negli Stati Uniti, ogni volta che uno entra sui social ci sono degli inviti ad andare a votare: vai a votare, vote. Quindi tanta gente è andata a votare, tanti giovani, e grazie anche a questa campagna massiva dei social network. E adesso hanno già annunciato che, per esempio, tutti quelli i post che in queste ore, nelle prossime ore, falsi sulla vittoria di uno dei due dei candidati, senza che ci sia un'ufficialità dei dati, loro li etichetteranno, come hanno fatto con questo posto di Trump sulla Pennsylvania. Da un punto di vista umano invece, Riccardo, ricordiamo appunto che Trump è stato un uomo di successo, un magnate, eccetera eccetera, Biden è stato il vicepresidente di Obama e ha anche un vissuto abbastanza sofferto, no? Ha perso la prima moglie, una figlia in un incidente, poi ha perso un figlio in un incidente stradale, poi ha perso l'altro figlio, oggi è andato proprio a salutarlo, si ricordava nella sua città natale, lui e questo figlio ha fatto la guerra e poi era lanciatissimo anche per la mia carriera politica, era il capo procuratore del Delaware e poi è morto improvvisamente di un cancro al cervello giovane alla fine della seconda presidenza di Obama, e c'è stato un momento molto personale, molto privato, difficile di Biden, che ha ricordato qualche volta durante la campagna elettorale quando mettevano in dubbio la sua persona relativamente alle storie dell'altro figlio. Vi ricordate che invece si parlava di interessi in Ucraina, di uno scandalo, esatto, che Trump, tutta questa storia qui della Cina e dell'Ucraina, insomma, sono due personaggi completamente diversi. Devo dire, questa campagna elettorale è stata molto velenosa, il paese è veramente diviso, e su Trump anche con questa inchiesta del New York Times di qualche settimana fa, che ha messo un po' alla luce per le dichiarazioni di redditi che lui, a differenza di tutti i presidenti americani, non ha mai reso pubbliche, in realtà si vede che Trump non è così miliardario come sembra, è pieno di debiti e come tutti a New York dicono, Trump non ha mai pagato una parcella di un avvocato e ha evitato tanti fallimenti grazie ai ricorsi legali. Quello che cercherà, vuole fare anche con queste elezioni, speriamo che non finisca male, insomma, in qualche modo che lui non ha mai accettato, quando qualcuno gli chiedeva in questi giorni di garantire la transizione pacifica in caso di sconfitta, lui non ha mai detto che lo farà. Oggi però ha detto due parole, si è fatto scappare, ha detto, e sono parole in qualche modo che hanno un tono un po' diverso, ha detto dichiarerò la vittoria quando ci sarà la vittoria, come quando dire, sarò sicuro, che non sarà questa notte, quando ci sarà, e poi ha aggiunto ma io vincerò di sicuro, però insomma è la prima volta che c'è questo elemento di dubbio, che non, perché all'inizio ha detto che stanotte avrebbe detto vinto appena uscirà la Florida, ma insomma oggi ha detto che non è così e che lui attenderà il momento giusto, quando nei prossimi, forse domani o nelle prossime ore, insomma, si capirà un po' meglio chi davvero ha vinto le elezioni. Sul voto postale la cosa è abbastanza complicata, perché ci sono degli stati che, per esempio la California, fino al 20 novembre ammette il ritorno dei voti postali, quindi insomma bisognerà vedere, soprattutto questi stati in bilico, come andrà. Si potrebbe andare per le lunghe, insomma. Riccardo Barlan, tu sei a Washington, lo ricordo, poi adesso c'è una pausa, puoi rimanere ancora in collegamento o vuoi che ti riprendiamo più tardi magari? Come volete voi. Vabbè, se vuoi rimanere in collegamento rimani, c'è anche Sergio Nava. Tra l'altro vedo che nelle elezioni per il Congresso, per il Parlamento americano, come dicevamo prima, c'è un numero record di candidate donne, anche di colore. Ci riprendiamo tra pochi istanti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Continua questo speciale effetto notte, Roberta Giordano sempre con voi, eccezionalmente fino alle 23 anziché sino alle 22, perché questa seconda parte, questa seconda ora di effetto notte, tutta dedicata alle elezioni americane, come vi ricordavo, avvengono ogni 4 anni il primo martedì di novembre, e questo è il primo martedì di questo novembre, 3 novembre, ne abbiamo parlato con diversi ospiti finora e anche con Sergio, il nostro Sergio Nava di Radio 24, e i nostri corrispondenti dagli Stati Uniti, Marco Valsania che tra poco torna e Riccardo Barlan, ma che è direttamente a Washington. Ci faceva poco fa un profilo, Riccardo, dei due candidati, ovvero del presidente repubblicano uscente Donald Trump e del candidato democratico Joe Biden. Invece adesso vorrei, Sergio, che tu ci facessi un breve ritratto dei due vicepresidenti, quindi Mike Pence per quanto riguarda Donald Trump e Kamala Harris invece per Biden. Sì, Kamala Harris, che tra l'altro è stata oggi in Michigan, è interessante notare altra differenza con l'Europa, stanno continuando a fare campagna i candidati, soprattutto anche il loro vice, questo è importante da ricordare, perché non, pur nel mezzo del voto comunque si continua a chiedere di votare il proprio partito, comunque il proprio candidato. Mike Pence e Kamala Harris, diciamo mai profili più diversi, se vogliamo. Da un lato abbiamo Mike Pence, che è comunque stato scelto 4 anni fa come vice da Donald Trump. Un vice ombra spesso e volentieri, lo si è notato più per le sue posizioni conservatrici comunque estremamente religiose, quando anche, se ricordo bene, ha partecipato a una manifestazione contro l'aborto. È stato il numero due perfetto per un presidente così invece appariscente, attivo, fuori dalle regole, e insomma Donald Trump lo conosciamo molto bene e possiamo dire è stato il suo alter ego in tutto, fedele, non è mai uscito dalle righe. Donald Trump ha licenziato ministri, ha licenziato consiglieri, e Pence invece è stato sempre in linea. Kamala Harris è invece il prodotto, anche se vogliamo, della multiculturalità. Interessante notare come oggi in India molti siti americani facciano vedere come in India ci sono degli omaggi a Kamala Harris, perché la madre era di origine indiana, ed è una donna innanzitutto che ha sfidato lo stesso Joe Biden nelle primarie. Già, vero, sì, era tra i candidati democratici, poi dopo. Esatto, nelle primarie del Partito Democratico, ma non dimentichiamo anche che Kamala Harris ha fatto tutta una carriera, diciamo, da procuratrice, prima poi di approdare in politica e distinguersi soprattutto per la sua grande capacità oratoria. Qualcuno dice Sergio, che potrebbe essere anche questo un trampolino di lancio poi per una possibile futura candidatura alla presidenza lei stessa degli Stati Uniti, ma insomma staremo a vedere. Diciamo che, vista l'età, questo è più di un sospetto, nel senso che se Biden oggi vincesse, vista anche l'età, in molti in realtà pensano che una Kamala Harris potrebbe essere la candidata nel 2024 alla presidenza della Casa Bianca. Non è assolutamente da scartare, e diciamo raccoglierebbe anche un po' il testimone lasciato da Hillary Clinton nella clamorosa sconfitta di 4 anni fa, con un profilo molto diverso e forse anche più potenzialmente più vincente tra 4 anni rispetto a Hillary Clinton, che non è stata molto amata per il suo profilo un po' elitario, mentre una Kamala Harris raccoglierebbe sicuramente anche più consensi. Riccardo Barlan, volevi aggiungere qualcosa da Washington? È caduto Riccardo, è preso a Washington, starà seguendo appunto molto da vicino quello che sta succedendo, è praticamente di fronte alla Casa Bianca. Saluto Marco Valsania, ciao caro Marco, che lui dagli Stati Uniti. Ciao Marco. Buonasera. Senti Marco, se tu dovessi sintetizzare gli argomenti principali su cui si dividono, per dare proprio l'idea di che politica diversa possano fare, abbia fatto per quanto riguarda Trump, tra Trump e Biden, no? Dalla questione razziale all'immigrazione, al coronavirus, all'economia. Sì, sicuramente, diciamo, difficile immaginare, diciamo, due profili politici oltre che personali più agli antipodi, insomma, dei due candidati. Temi, diciamo, alla fine le differenze sostanziali riguardano soprattutto la lotta al coronavirus, la lotta alla pandemia. Chiaramente, diciamo, Biden ha puntato quello e l'altra pandemia, e l'altro elemento chiave su cui ha puntato Biden è quella che lui ha definito la lotta per l'anima del paese, cioè, diciamo, l'unità, il risanare le ferite contro, diciamo, quella che lui ha accusato essere la politica della divisione e dell'odio di Trump. Ecco, diciamo che i temi su cui alla fine si sono differenziati sono proprio questi, cioè da una parte Biden con questo tipo di profilo, dall'altra un Trump invece che si è caratterizzato raddoppiando le puntate sulla sua, diciamo, le scommesse sulla sua così politica identitaria, se si vuole, cioè l'identificazione con la propria base politica più militante, anche più convinta, e quindi, diciamo, soprattutto una base popolare, soprattutto bianca, ma non solo, che comunque si identifica soprattutto con il concetto di America First, di un nazionalismo, isolazionismo populismo, diciamo, che si intreccia e che vuole appunto mobilitare soprattutto questo tipo di base popolare, allargandosi leggermente anche ad alcuni altri elementi, diciamo, che possono essere attirati. Ci sono segnali che forse tra alcuni elementi, alcune fasce dell'elettorato, per esempio ispanico, il suo profilo, diciamo così, infatti, conservatore, Marco, macho, abbia fatto qualche presenza. Tra poco ci dirai proprio anche più chiaramente, più in modo didascalico, chi è che vota per Trump e chi per Biden. Adesso ci deve lasciare Riccardo Barlam da Washington. Volevi aggiungere una piccola cosa, poi ci salutiamo, Riccardo. Ah sì, come vuoi, qui è tutto ancora in ballo, ci aspetta una lunga notte elettorale, vedremo come andrà. Certo, poi proseguiranno ovviamente gli speciali di Radio 24, da domani all'alba, e poi per tutto il giorno ovviamente se ne parlerà, perché questa è la grande giornata, la nostra nottata per quanto riguarda noi a proposito di fuso orario. Però, come si diceva, no, Riccardo, si andrà avanti magari capace anche per settimane e settimane prima di sapere chi è il vincitore, Riccardo. Spero prima, però l'indicazione bisognerebbe, forse si saprà già domani sera italiana, ma insomma... le indicazioni si sapranno, poi i risultati definitivi saranno un'altra cosa, bisognerà aspettare un po' più di giorni, certo. Grazie Riccardo Barla, buon lavoro Riccardo. Ciao, buon proseguimento. Saluto intanto Marco Cacciotto, che è docente di marketing politico e comunicazione elettorale all'Università di Torino. Buonasera professor Cacciotto. Buonasera. Se lei dovesse giudicare la campagna elettorale di Trump nel 2000, che l'ha portato alla vittoria nel 2016, e quella di oggi, la diversa efficacia, poi naturalmente nel frattempo sono cambiate tante cose, poi Trump è stato uno che ha usato moltissimo i social da subito, no? Esatto, sì, è cambiato un po' anche il terreno di gioco per Trump. Intanto non poteva più essere l'outsider che era 4 anni fa, e si è trovato anche ha delle limitazioni rispetto anche alla sua forza, non solo sui social, ma nel fare campagna sul territorio. Visto l'emergenza Covid, non ha potuto fare esattamente quel tipo di campagne che aveva progettato. Però negli ultimi giorni si è visto uno sforzo senza precedenti, proprio in realtà nella campagna porta a porta, comizi, da parte del Partito Repubblicano. Solo per dare qualche numero, perché poi questa parte qua sarà fondamentale nel risultato finale, perché i candidati stanno andando a cercare veramente persona per persona i propri elettori. Infatti uno degli indicatori in questa nottata sarà vedere i risultati nelle contee, nei distretti a prevalenza democratica o repubblicana, per capire chi ha mobilitato di più. Quindi ad esempio già forse il primo stato chiave sarà la Florida, che incomincia subito a conteggiare anche i voti via posta, e che ha delle differenze all'interno del territorio molto, molto marcate tra le zone democratiche e repubblicane. Quindi quello potrebbe essere già un indicatore. Però per dare solo un'idea, i repubblicani hanno sviluppato 182 milioni di elettori, di contatti elettori, no, in questa campagna. Ed è un dato interessante, che è quasi 5 volte di più di quanti sono stati contattati nel 2016. Hanno fatto uno sforzo di registrazione di elettori altissimo, e sembra che addirittura siano più gli elettori nuovi registrati repubblicani che democratici, o che comunque siano equivalenti. Questa cosa qua è passata un po'... non ce ne siamo accorti tanto finché non sono incominciati a venire fuori i numeri, no? Perché spesso è difficile giudicare la campagna elettorale, perché noi seguiamo la parte che possiamo vedere in video, certo, che è coperta dai media, ma la vera partita qua è proprio sul territorio tra i due candidati. Da questo punto di vista Trump e i repubblicani hanno fatto un salto di qualità rispetto a quattro anni fa. È chiaro che adesso tutto lo sforzo che abbiamo visto negli ultimi giorni, dove la differenza era sensibile tra i due candidati, che erano entrambi negli stati chiave, no? A partire da Pennsylvania, che è il vero terreno di scontro, perché se cade la Pennsylvania, siamo che se Biden vince la Pennsylvania è a un passo da raggiungere i 270 elettori, mentre a Trump non basta. E, si vedeva Trump, che usava sempre la presenza di pubblico dietro di sé, faceva vedere l'entusiasmo attorno, le foglie oceaniche proprio per creare quella mobilitazione, mentre su questo Biden con i comizi nel drive-in non dava l'idea di questa grande partecipazione. Questo potrebbe essere, diciamo, nello sforzo finale un problema. E se guardate anche gli ultimi video postati su Twitter dai due candidati, c'è un invito al voto molto più tradizionale da parte di Biden, con dei giovani che escono e che quindi poi vanno a recarsi a votare, e invece anche la cosa ironica di Trump, che posta il suo video con la musica di YMCA, con lui che balla, proprio per dare l'idea: sono carico, sono il solito Trump, no? E c'è stato anche questo colpo di scena che ha contribuito alla campagna elettorale della positività e della guarigione in pochissimo tempo. Chissà se Trump sapeva che YMCA, insomma, era un canto di un gruppo, diciamo, gay friendly, se non proprio. Infatti l'ho pensato anch'io, ho detto, visto che lui non ha molte simpatie. Non so se era considerata questa cosa qui, però alla fine è una canzone che conoscono praticamente, certo, tutti, perché che dà carica, entusiasmo. Aver partecipato a una festa senza che ci fosse quello. Quindi questi sono tutti fattori notevoli nella campagna di Trump. Cioè, da un lato l'attenzione nel mobilitare gli elettori, quindi le zone rurali sono fondamentali, e anche negli ultimi spot elettorali, cioè nell'ultimo che si vede nei profili social di Trump, è praticamente uno sventolare continuo di bandiere, no? Quindi è proprio il patriottismo, e l'omaggio ancora una volta all'America profonda, no? All'America rurale, come si dice, è proprio lo sforzo di mobilitare quel tipo di elettorato. Fino là si momento. Gioca tutto, mentre Biden dall'altro lato, l'aiuto di Obama sa che non è così sicuro di riuscire a mobilitare quella che è la coalizione di Obama, quella che aveva portato Obama, insomma, Hillary, al successo, e Hillary non riuscì a mobilitare. Quindi chiarissimo, si gioca tutto, tutto qui. Grazie di questa illustrazione, diciamo, dei stili così diversi e con efficacia diversa, naturalmente, di Trump e Biden. Vediamo se anche quanto questo anche inciderà poi nella vittoria dell'uno e dell'altro. Grazie professor Marco Cacciotto, ricordo, docente di marketing politico e comunicazione elettorale all'Università di Torino. Grazie professore. E buona serata e buona continuazione. Giovanni Capuano, molto brevemente, siamo veramente stringatissimi. Un minuto, se ci vuoi aggiornare sulla Champions League. Giovanni, abbiamo proprio un minuto. Ti do i finali perché le due partite si sono appena concluse. Allora, l'Inter ha perso 3-2 a Madrid ed è stata una gara molto emozionante. Il Real è andato avanti 2-0 con Benzema e Sergio Ramos, 25esimo e 33esimo del primo tempo. Poi è arrivato subito dopo Lautaro Martinez nella ripresa, 2-2 di Perisic. L'Inter ha avuto due grandi occasioni per passare, ma nel finale ha preso il gol di Rodrigo all'80esimo, e dunque 3-2. Inter in questo momento ultima nel girone, ma è un girone con quattro squadre molto vicine. E l'Atalanta invece è stata travolta in casa dal Liverpool, 5-0 il finale. Si era già visto nel primo tempo con la doppietta di Diogo Jota, 17esimo e 33esimo. Nella ripresa, nei primi 9 minuti, Salah, Sadio Mané e ancora Diogo Jota, autore dunque di una tripletta. Atalanta che viene raggiunta dall'Ajax al secondo posto in classifica, ma si può rimediare, insomma, a questa sconfitta nel girone di ritorno del girone eliminatorio. A te. Grazie Giovanni Capuano, così abbiamo fatto anche un excursus di nuovo sulla Champions League. Ritorniamo invece sugli Stati Uniti, Marco Valsania e Sergio Nava. Abbiamo ancora 5 minuti, quindi Marco, tu in questa chiusura di cosa senti che è importante parlare prima di lasciarci? Sicuramente gli elementi che caratterizzano questa campagna sono da un lato quella che è stata una partecipazione abbastanza record al voto. Per gli americani, ricordiamo che, diciamo, il paese ha una tradizione non esattamente così idilliaca in termini di affluenza alle urne, però si sente, Marco, tu che sei negli Stati Uniti, si sente proprio l'importanza di questo voto, di veramente sono due volti del futuro dell'America e anche del mondo, no? Esatto, e infatti l'altro elemento è proprio questo, diciamo, il riflesso, la ragione di questa partecipazione è proprio la sensazione di questa importanza cruciale del voto, quasi di una scelta fra due identità del paese, fra due diciamo così, due direzioni veramente profonde del paese. È una passione di fondo che in realtà, diciamo, è coperta dall'ansia, perché comunque questo è un paese, ricordiamo che in questo momento sta attraversando una pandemia che si sta aggravando. Negli ultimi 24 ore 93.000 nuovi casi di coronavirus, che quindi, diciamo, sostanzialmente a livelli ancora record di crescita delle infezioni, e anche una crisi economica che, nonostante i recuperi, la riapertura, diciamo, dell'economia celebrata così da Trump come carta per la sua, diciamo, per la sua rielezione, in realtà è una crisi profonda anche lì, che lascerà, indipendentemente da come vadano le cose, lascerà profonde tracce nel paese, aggravando le diseguaglianze, creando sacche di povertà difficili da recuperare, e quindi, diciamo, l'ansia di fondo più della dell'emozione, mentre, diciamo, l'elezione di Obama fu una grande elezione per il futuro, ecco, questa sarebbe la differenza che vedo, una lotta sul futuro dell'America. Questa è quasi la sensazione di essere in una battaglia un po' ancora di retroguardia, un'elezione di transizione. Questa è anche la prima elezione nella storia americana con due candidati di oltre 70 anni. Già, si diceva prima, insomma. Quindi, diciamo così, un'elezione che in realtà guarda al passato più che al futuro. Il futuro però porrà le basi per il futuro, perché un successo o di Trump o di Biden, diciamo, dei repubblicani in questa loro versione, o dei democratici, in realtà porrà le radici profonde per quello che sarà poi il futuro, potrà diventare in futuro, e chi raccoglierà, diciamo, poi il testimone. Quindi, ecco, direi che più della mobilitazione, dell'entusiasmo, si sente molto l'ansia e il nervosismo di uscire da questo periodo. I trampiani in realtà è una mobilitazione più di rabbia e di ansia che non di gioia e di danze. Marco, scusami, danze di Trump. Ecco, abbiamo ancora un minuto e mezzo, Sergio, se vuoi chiudere. Poi ricordiamo che sia Marco Valsania che Riccardo Barlam, che Sergio Nava, poi li ritroverete anche in tutti gli speciali e trasmissioni domani. Sergio, come vuoi chiudere? Io chiuderei con una piccola guida pratica a chi vorrà farsi invece una notte con le TV italiane o americane. Ce ne sono molte via internet, quindi le potete direttamente guardare via web per capire un po' come andrà la notte. Attenzione all'una ora italiana, perché tra North Carolina, Ohio, Georgia e parte della Florida già arriveranno i primi risultati, e se Biden dovesse prevalere in questi stati, allora una presenza Biden sarà quasi certa. Verso le due arrivano Pennsylvania, Michigan, Wisconsin e Texas, altri stati in bilico importanti. Attenzione anche qui, e a capire se verrà confermata l'onda blu di Joe Biden oppure, al contrario, una rimonta di Trump che sorvertirebbe tutti i pronostici. Poi alle 4 Nevada, Iowa. Mi sono dimenticato l'Arizona alle 3 italiane, scusate, e ricordiamo che si chiude alle 6 con le Hawaii e alle 7 ora italiana con l'Alaska, ma saranno voti elettorali abbastanza, diciamo, ininfluenti probabilmente a quel punto. Grazie Sergio Nava, qui si decide il destino, ripeto, degli Stati Uniti, ma anche del mondo, visto che gli Stati Uniti rimangono comunque la più grande potenza mondiale. Grazie Marco Valsania, grazie Sergio Nava, buona continuazione, buon lavoro nella notte americana, e poi domani, vi dicevo, tutti gli speciali e comunque ovviamente l'argomento centrale della maggior parte delle trasmissioni di Radio 24. Ora vi devo lasciare, Roberto Giordano chiude qui, vi ringrazio e vi saluto per il vostro ascolto, come sempre anche per i vostri messaggi, anche se ho avuto poco tempo di leggerli. Ringrazio Alessandro Schirano, in assistenza e regia Danilo Di Trani, Gianmarco Ferronato la parte tecnica. Domani un altro giorno, ma l'appuntamento è sempre alle 21.